La vicenda nasce in realtà dalla stipula del memorandum Italia-Libia nel febbraio del 2017. I progetti di cui parliamo sono stati approvati pochi mesi dopo, sono 6 milioni di euro che sono tutti destinati a attività all'interno dei centri di detenzione libica. Questi progetti sono stati attuati da una serie di ONG italiane che hanno realizzato interventi abbastanza disparati all'interno di questi centri, alcuni di valenza prettamente umanitaria, altri invece più inquietanti dal nostro punto di vista, come ad esempio il mantenimento in funzionamento delle strutture e in un caso addirittura il rafforzamento di cancelli e recinzioni. Per questo noi abbiamo creduto opportuno segnalare questo alla Corte dei Conti, perché ci sembra un impiego non corretto del denaro pubblico. E sono fondi che erano destinati comunque alla cooperazione e a migliorare la condizione dei migranti. I fondi sono stati erogati dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, AICS, e le finalità dell'AICS sono appunto promuovere la cooperazione e lo sviluppo internazionali. Qui noi non vediamo nulla che ricordi la cooperazione e lo sviluppo, vediamo tutt'al più, nel migliore dei casi, un intervento assistenziale a persone che si trovano in condizioni di bisogno estremo all'interno dei centri e peraltro senza chiedere nulla in contropartita al governo libico, dove è proprio il governo libico che è responsabile delle violazioni più gravi nei confronti di queste persone. Le faccio un esempio: nei centri di detenzione sono detenuti donne e bambini. Il governo italiano, anziché chiedere con questi interventi come contropartita almeno il rilascio di donne e bambini, ha pensato di fare progetti che portano ad esempio giochi, creano spazio gioco, portano latte in polvere alle donne e bambini. Quindi di fatto, dal nostro punto di vista, è una sorta di accettazione. Rischia di essere una legittimazione dello status quo. Noi sappiamo che dentro questi centri di detenzione avvengono torture, avvengono infrazioni dei diritti umani, sono gestiti dalle milizie, insomma, questo oramai non è, come dire, un segreto di Pulcinella, quindi indirettamente comunque questi fondi potrebbe averne beneficiato queste milizie. Diciamo che non lo possiamo escludere, perché i rendiconti delle ONG all'AICS sono in molti casi abbastanza approssimativi. Dobbiamo tenere conto del fatto che non è prevista la presenza di alcun operatore italiano sul campo, e cioè in Libia, per la situazione di sicurezza eccetera, e quindi le ONG italiane hanno attuato questi interventi attraverso dei subappaltatori, degli implementing partners sul terreno libici, ONG libiche. Di alcune conosciamo il nome, di altre invece non lo conosciamo. I rendiconti di come sono stati spesi i soldi in molti casi sono abbastanza approssimati, e quindi certamente non possiamo, la verità è che non sappiamo esattamente come sono stati spesi questi soldi, diciamo che non possiamo escludere che in parte ne abbiano beneficiato coloro che gestiscono i centri, anche perché questi sono centri di detenzione, quindi non si può entrare e uscire a proprio piacimento per portare generi, beni eccetera. Mi sembra scontato che ci vuole comunque un accordo con chi gestisce il centro. Per questo che avete interessato la Corte dei Conti, perché potrebbe esserci un danno erariale ma anche d'immagine. Ma sì, noi riteniamo che appunto con questa, attraverso la creazione di interventi dal nostro punto di vista non sostenibili nel tempo, cioè nella migliore delle ipotesi interventi emergenziali a favore di persone in grave stato di bisogno, dall'altra attraverso l'attuazione di attività anche in parte dubbie, nel senso che appunto un conto è portare latte in polvere, un conto invece è fare lavori di manutenzione sui carceri oppure rafforzare addirittura cancelli e recinzioni, questo non costituisca una spesa che è conforme allo scopo di quei soldi. Quei soldi sono stati stanziati per la cooperazione e lo sviluppo e ce li vediamo invece spesi per mantenere in funzione dei carceri, dei luoghi di detenzione, che poi non sono neanche carceri, sono magazzini, capannoni eccetera, che sono intrinsecamente inumani.